Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Io l'ho abbracciato a 5 anni a Sebastiano, perché fino ad allora Sebastiano era, come lo posso definire? Non si faccia toccare. Un selvaggio. Io giravo di nascosto, cercavo di vedere veramente se il bambino aveva dei problemi. E a casa non dicevi niente a nessuno? No. Ma per loro era neanche a mio marito. Ma era normale per loro un bambino che non parlava a 4 anni? Sì, vabbè, si facevano alle dicerie antiche. Sì, ah, la zia ha parlato a 5 anni, quell'altro ha avuto 6, ma a me non... No. Dicevo, parlerà? Parlerà prima o poi. Tuttora forse alcuni parenti si vergognano di Sebastiano. Dopo 30 anni? Dopo 30 anni. Gli stimoli sessuali ce li ha. Faceva degli atti anche quando magari c'era gente. Ah, si toccava davanti piano, agli piano, sì, piano piano invece ho cercato di capire che lo poteva fare, ma è una cosa intima, quindi si fa quando è a letto. Questo è quello che dice con grande dignità una mamma calabrese sola che abita a Botricello, su una casetta in riva al mare, con un figlio gigantesco, autistico, di cui si occupa soltanto lei. Lo dice con spudoratezza e allo stesso tempo con immenso pudore e rispetto. Quello che non si dice nei convegni sull'autismo. Io ricordo qualche anno fa andai a un convegno sull'autismo, doveva esserci una sezione in cui veniva una importante ricercatrice, veniva non solo da quella, dall'Inghilterra mi pare, mi disse: in Italia non si può parlare di sessualità e disabili. Scusate, ma questa parte del convegno non si può fare, perché mi hanno detto che non se ne può parlare. Ecco, invece ne parlava una mamma calabrese. Questo è semplicemente uno spezzone, un estratto di un documentario che io stesso ho girato. Radio 24 mi dà modo di parlare di un mio lavoro, sono grato a questa emittente che da anni mi dà modo di parlare comunque di diversità, di disabilità, con grande leggerezza e con grande spirito di lungimiranza, visto che lo faranno tutti in questi giorni, perché è la giornata mondiale di consapevolezza sull'autismo, domenica, già vedete gli spot che girano nel servizio pubblico, autistici fantastici, che emanano lucine, che vivono in paesi capovolti, che danno le mani ai bambini, sono tutti belli, contenti, palloncini azzurri, mamme, cuore. Beh, l'autismo è altra cosa. Io l'ho raccontato in un documentario, si chiama Tommy e gli altri, lo sapete ormai, la visibilità estrema, è stato prodotto semplicemente e autonomamente con le famiglie che hanno contribuito a fare questo documentario e gli studenti della LUIS. La LUIS è un'università che il Natale passato ha fatto una colletta, ci ha permesso di cominciare. Abbiamo girato tutta Italia, Tommy e gli altri lo vedrete su Sky, Sky Arte HD, lo vedrete il 1 aprile alle 21.15, Sky Cinema Cult alle 23.15, il 2 aprile lo vedrete in replica alle 19.35 sugli stessi canali. Chi non ha un abbonamento Sky lo vedrà comunque il 2 aprile alle 23 in chiaro sul canale 8, TV8. Detto questo, detta la storia di questa mamma calabrese, cominciamo oggi a parlare di autismo e di neurodiversità in senso lato, in senso generale. Lo faccio come faccio spesso con Luigi Mazzoni. Luigi Mazzoni, buongiorno. Buongiorno. È un giovane ricercatore siciliano che ricerca da anni in neuropsichiatria infantile, specializzato in autismo, vede ogni giorno un'infinità di ragazzi autistici. Con Gigi Mazzone spero di poter fare cose concrete. Ne parlo con Annalisa Minetti. Buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno Pierluigi. Annalisa Minetti, voi direte, che c'entra Annalisa Minetti? Cantante cieca che vinse Sanremo, l'atleta paralimpica, c'entri qualcosa con l'autismo, Annalisa? Ma in realtà io c'entro con tutto quello che è ricchezza, quindi con tutto quello che è diversità. Io sono, innanzitutto lo diciamo agli ascoltatori, che sono una tua grande amica, sono legatissima a Pierluigi, lui non lo sa ma perché mi farà diventare una confidenza anche nello scherma, nella scherma, e di fondo vorrei parlare con un pochino più di leggerezza, con un pochino più di entusiasmo di quello che fondamentalmente la gente spaventa tanto, che è la diversità. La diversità è una grande ricchezza, la diversità è semplice, io dico sempre che non vede chi non sa, quindi se la gente sapesse, se la gente si informasse, se la gente potesse provare a vivere con competenza determinati temi, determinati argomenti, allora le cose spaventerebbero. Pensate a quanto è banale la normalità e a quanto è meraviglioso essere specialmente abili, ma non vuol dire che da disabili rifiuti la tua disabilità per diventare speciale, ma semplicemente qualsiasi tipo di disagio si può vivere cercando quelle che sono Annalisa, le nostre. Annalisa, tu c'hai un fratellone più o meno della stirpe di Tommy. Di 35 anni con un ritardo cognitivo importante a causa di un'asfissia prenatale, una persona che mi ha insegnato, mio fratello mi ha insegnato che cos'era, quali altre opportunità c'erano al di là della sua disabilità, come è difficile dover trovare risorse in maniera assolutamente autonoma. Quindi i miei genitori sono diventati ricercatori, sono diventati politici, sono diventati medici, sono andati al di là del loro ruolo di genitori per dare a Fabio, mio fratello, la possibilità di vivere la sua vita e non di limitarsi ad esistere. E questa è stata una cosa grandiosa. Io ho imparato attraverso loro, poi ho scoperto chiaramente di avere una patologia che mi avrebbe portato alla cecità, ma ero preparata a vivere la mia vita come un'opportunità, perché la vita è un'opportunità per tutti, è un diritto di tutti e dobbiamo smettere di vivere di incertezze, dobbiamo dare la possibilità a tutte le persone, anche nel loro disagio, di poter vivere la loro vita, di avere i loro spazi e di essere protagonisti e non comparsi. Senti Annalisa, che stai preparandoti adesso? Cosa stai preparando? So che sei molto affannata. Sto preparando la medicina perché c'ho la febbre, Gianlu. E va domenica, non devi correre alla maratona di Roma? Corro per forza, perché la devo correre, perché voglio correre, perché andrò al di là della mia del mio malanno, anche perché può essere anche che sia soltanto ansia somatica, quindi la paura della prestazione, ma sarà una grande festa. Ma lo sai che ti affideremo alle cure di Gigi Mazzone, personal coach della nazionale italiana di spada, l'ha portati a Rio, gli ha fatto vincere l'argento. Da oggi sarai nelle sue vincere anche la maratona di Roma. Sarai domenica vince la maratona di Roma, dai. Sarai nelle sue sapienti mani affidata tra poco, Annalisa. Quindi assolutamente questo... sì, ci sentiamo poi tra qualche minuto, però adesso sto preparando il mio medicinale intanto per abbassare un pochino la temperatura e poi mi sto preparando perché ho voglia di correre, la voglia di dimostrare ancora una volta che tutto è possibile e che non spaventano neanche i 42 chilometri. Noi ti faremo trovare lungo il percorso alla maratona di Roma domenica alcuni ragazzi autistici che ti interverranno, ti metteranno le mani addosso, ti spingeranno, insomma ti faranno vincere. A tra poco anche con gli ascoltatori. 800 24 00 24, oggi parliamo di autismo, ma così ne parliamo ridendo e sorridendo, perché alla fine qualcosa ci inventeremo. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Passo spesso e volentieri giornate a rispondere a persone che mi chiedono informazioni su di lui. Le domande che spesso ci fanno è come si riesce a gestire un ragazzo autistico così grosso. E il trattamento nei suoi confronti deve essere fatto in una maniera molto tranquilla, molto paziente, molto... molto stressante in certi momenti. L'eteroaggressività per Giacomo è finita intorno ai 16 anni, 17 anni. Tende casomai a farsi del male dandosi dei morsi magari sul dorso della mano, e che questa è guarita benissimo. Questo è Walter, padre di Giacomone, questa è un'altra delle storie che abbiamo raccontato a Tommy e gli altri, il docufilm che andrà in onda a Sky Arte, Sky Cinema Cult, sia il 1° che il 2 aprile. Gigi Mazzone, buongiorno. Buongiorno a voi. Ah, Gigi Mazzone, al di là del fatto che ti occuperai di Annalisa Minetti per farle vincere la maratona di Roma, cominciamo a entrare nello specifico. La storia di Walter e di Giacomone è una storia che tu anche conosci. Giacomone è un ragazzo gigantesco, è alto oltre 2 metri. Il padre è un uomo normale, ma sembra piccolino, un nano di fronte a lui, e se ne occupa il padre dalla mattina alla sera. Quante storie analoghe tu conosci, visto che di autistici ne vedi tanti? Di storie come queste ce ne sono tante. Io però partirei da una considerazione. Mi ha impressionato, l'altra sera c'era Eleonora Daniele a Porta a Porta che promuoveva la campagna sull'autismo. A un certo punto Vespa parla di malati di autismo e pensavo, se una persona di grande cultura come sicuramente Vespa che parla di malati di autismo, penso quanta ignoranza ci può essere nella popolazione generale che non vive questa condizione. Per cui partirei da quello che significa dire, questa oggi giornata. Tanti giornali mettono il titolo autismo, la malattia, anche del mio documentario. Il documentario parla dei malati d'autismo. Esatto, per cui partirei proprio da quello che significa giornata della consapevolezza dell'autismo. Allora, iniziamo da questa parola, consapevolezza. Iniziamo a fare cultura dell'autismo, visto che da porta a porta parte un messaggio da persone di cultura che in realtà... Adesso diciamo, ci allarghiamo, da giornalisti che sanno il loro mestiere. sapere, è un'altra cosa. Sì, però diciamo che hanno una cultura generale. Diciamo sì. Allora, non, l'autismo non è una malattia. L'autismo è una condizione di vita che dura per tutto il percorso dell'individuo, che sicuramente, se ben gestita con attività di supporto sociali e psicosociali, può portare anche a un miglioramento di tutta una sintomatologia, per cui non c'è in realtà una degenerazione dei sintomi, anzi c'è un miglioramento nel corso della vita. E ci sono dei falsi miti. Uno di questi falsi miti è quello che gli autistici sono aggressivi. Gli autistici non è vero che sono aggressivi di per sé. L'autistico che non riesce a decodificare alcuni messaggi sociali, l'autistico che non riesce a gestire delle sensazioni anche somatiche del proprio corpo, di alcune situazioni, ovviamente diventa agitato e può diventare, come succede a tutti noi, aggressivo. Io faccio sempre questo esempio, dimmi se da un punto di vista scientifico è abbastanza calzante. Dico, immaginate voi, vi trovate in una stanza, entra una tigre affamata, non diventereste aggressivi comunque per difendervi? Ecco, la stessa cosa per un autistico. Ma anche questo va bene, ma anche in maniera molto più semplice: il giorno in cui tutti noi ci scordiamo un telefonino a casa, per cui perdiamo una nostra routine e non riusciamo più ad avere quelle certezze che abbiamo noi tutta la giornata, diventiamo più agitati, più nervosi, più in tensione e magari scattiamo rispetto a un nostro collega nel posto di lavoro. Ecco, l'autistico è una persona che fa fatica a decodificare i messaggi sociali. Tutto quello che noi diamo per scontato, anche messaggi non verbali, la persona autistica fa fatica e da qua possono esserci delle crisi, ma l'autistico di per sé non è aggressivo. Questo lo diciamo intanto per chiarire il campo. Oggi con Gigi Mazzone poi toccheremo un'alternativa che secondo me è stimolante, fantasiosa, è folle anche per il trattamento degli autistici, perché normalmente le persone pensano che il bisogno sia di trattamenti clinici e medici, saranno senz'altro bisogno, o di bei luoghi con persone caritatevoli per metterli. No, noi diciamo, finché siamo ancora in grado di gestire questi ragazzi, aiutarli, facciamoli fare una vita decente. Gigi Mazzone è uno sportivo, è stato un nazionale di spada, tutta la vita amato la scherma, poi si è messo a fare il neuropsichiatra, anzi in contemporanea, ha ripreso in mano comunque la sua antica passione, ha portato la nazionale italiana di scherma alle Olimpiadi di Rio, poi parleremo di questo. Però adesso do la voce a qualche ascoltatore. 800240024, Giovanna. Dottor Nicoletti, la ringrazio di... Ma è in viva voce, Giovanna, sento un po' di rumore. È in viva voce col telefono? No, lo metto all'orecchio perché sennò non sento sì, nulla. Mi scusi. Intanto volevo ringraziarla perché lei affronta spesso problemi che tanti preferiscono evitare. Tra questi, proprio perché ho sentito l'intervento di un'ascoltatrice prima di una mamma, l'argomento che mi interessa particolarmente, sia professionalmente che umanamente, è la sessualità. Perché professionalmente lei cosa fa, signora? Io faccio la psicologa. La psicologa ha figli autistici o tratta con autistici? No, sinceramente no. Ma fra i suoi pazienti ci sono autistici? Non mi sento all'altezza di trattare una patologia così importante e mi limito a fare quello che so fare bene. Vabbè, qual è la domanda? La domanda è questa. Io, per esempio, ho trattato il caso di un ragazzo che ha una sindrome di Williams e che ha, giustamente, perché ha 18 anni, esigenze sessuali. Mi sono data da fare perché so che in altri paesi, in Svizzera, in Germania e in Svezia, esistono delle figure che sono assistenti sessuali, che non sono, vorrei chiarire, le prostitute, ma sono persone che fanno dei corsi. Chissà che parlano tutti al femminile, ci sono anche ragazze che hanno questa esigenza, quindi serviranno, certo, anche dei maschi, sì, per loro, o dei maschi per dei maschi, tutti, o delle femmine per delle femmine. Certo, è vasto il problema. Esatto. Ed è un problema che mi sembra che in Italia non si stia affrontando, perché ed è una realtà, un'esigenza. Ma c'è chi se ne occupa, ci sono delle associazioni che si occupano. Sentiamo intanto Gigi Mazzone, per quello che sappiamo noi che riguarda le persone dello spettro autistico. Ti è mai capitato, Gigi, di dover affrontare questo problema? Assolutamente sì, con grande difficoltà, perché le scuole di specializzazione in neuropsia infantile non formano a come affrontare la sessualità in una persona, per cui a me è capitato di vedere un padre in ambulatorio e mi diceva: dottore, ma come faccio, come insegno a mio figlio a masturbarsi, e rimani là un po' inebetito e cerchi di trovare la risposta più saggia. Però quella soluzione, quell'incontro è l'unico incontro in cui il padre può avere una risposta sensata, e spesso non ce l'hai. Ricordiamo che la sessualità è fisiologicamente in adolescenza ci sono degli impulsi ormonali che poi possono incidere anche sul comportamento. Un ragazzino, un maschio ma anche femmina, che non riesce a esprimere la propria sessualità anche attraverso una masturbazione fisiologica, la mattina magari può arrivare a scuola ed essere più agitato, per cui molte crisi di agitazione, per tornare al punto di prima, possono anche essere causate da uno squilibrio un'esplosione ormonale che c'è fisiologicamente durante l'adolescenza e che ragazzi e la famiglia non riesce a gestire. Infatti pensino generazioni di esseri umani neurotipici che ci ascoltano, come sarebbe stata la loro adolescenza, la loro vita, se in realtà, come accadeva nelle famiglie di una volta, avessero preso sul serio l'indicazione dei tutori, dei genitori, dei preti: attenzione, diventi cieco, per la paura di diventare cieco, fossero tutti rimasti con le mani in tasca per tutta la loro vita. Marco Fichera, buongiorno. Buongiorno. Marco Fichera è uno scrimitore italiano, vincitore della medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016. Intanto grazie per aver partecipato. Gigi Mazzone, Fichera è un tuo collega di spada. A te diciamo l'onere e il piacere di interagire con lui. Fichera, voi avete oltre partecipato a un importantissimo che ci riempie d'orgoglio record olimpionico, siete stati diciamo di supporto in una grande operazione. Dei ragazzi autistici sono partiti da Roma, sono andati a Rio e sono stati insieme a voi. Come avete vissuto questa vostra esperienza, un momento già difficile per voi? Dovete pensare al risultato, agli allenamenti, eravate circondati dagli autistici che aveva portato Mazzone da Roma. Detto così sembra che sia stato difficile, ma in realtà assolutamente no, nel senso io è stata una bellissima esperienza già di per sé, chiaramente l'essere alle Olimpiadi in più, è ovvio che a fare conoscere un mondo che a volte magari si pensa di conoscere e invece lo si disconosce, secondo me è il primo passo alla fine per includere comunque ancora di più questi ragazzi all'interno di un contesto che secondo me li può aiutare come quello sportivo. Io su questo ieri ci siamo sentiti con Marco quando abbiamo pensato di così strutturare la trasmissione in maniera anche parlando di sport e autismo. Ho sentito Marco, gli ho detto: Marco, però diciamo cose carine, cose intelligenti, perché poi alla fine se no si fanno sempre i soliti discorsi. Allora io la dico tutta, perché quando il giorno prima della gara, no, abbiamo insieme al commissario tecnico portato la squadra di spada maschile, che il giorno dopo poi ha vinto l'argento olimpico, a casa Italia a fare un pranzo con i ragazzi che erano là, con i ragazzi autistici che erano là, Marco è stato uno dei primi che mi ha detto: non ci voglio andare perché ci dobbiamo concentrare per la gara, no? E poi in realtà non è andata proprio così. Aspetta, poi in realtà, quel pranzo, perché c'era grande tensione e Marco aveva pure ragione a dirmi quello. Beh, in quel momento un po' le palle. Adesso non facciamo finta che sono, lo sto dicendo appunto quanti per questo, ragazzi? Il falso quanti buonismo. Erano? 10, quanti erano? 8 ragazzi e 6 operatori. Cioè non è che era proprio diciamo una passeggiata. Il giorno dopo aveva una squadra che aveva la gara più importante della vita, ci può stare che cioè, non è può... che sono 6 seminaristi stanno lì in un angolo silenzioso, rompono un po' le palle. Lo stesso Marco è venuto dopo 2 giorni da me, ma tutti i ragazzi, Paolo Pizzo, Rico Garozza, Andrea Santarelli, a dirmi: quel pranzo è stato un pranzo speciale. Ecco, questo è il significato, nel senso che spesso uno magari si fa prendere dal buonismo, dalla compassione, dice no, quanto sono bravi, quanto sono buoni. No, non è questo il punto è che poi veramente riesci a trovare una chiave di lettura là dove non pensi ci possa essere. E l'esperienza di Marco, poi, che mi fa piacere che è qua con noi, è stata proprio questa, cioè tra il prima e il dopo di quel pranzo c'è stato veramente un cambio anche di atteggiamento mentale da parte di tutta la squadra. Io che sono estremista in questo dico che in realtà io trovo molto divertente l'irruzione di un autistico in situazioni importanti. Chiedi vedere Tommy, Achille, Gianna, altri ragazzi autistici che stavano al Senato, cioè con la seconda carica istituzionale dello Stato, che li abbracciavano, che facevano gli autistici a tutti gli effetti, e creava allegria. Ho visto Grasso sorridere, ho visto il sottoscritto Boschi sorridere. Improvvisamente, nel luogo più impaludato del mondo, che non si entra se non c'è la cravatta, 4 autistici hanno improvvisamente portato la gioia. Ci fermiamo solo un istante. Marco, aspetta con noi ancora proprio una frazione di secondo. Dobbiamo mandare un'interruzione e poi ci sentiamo. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta... I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Melog. Cronache meridiane. È stato malissimo a scuola, non è stato molto integrato. Ecco, io ho dovuto cercare con le altre mamme di farlo uscire il pomeriggio, perché a scuola era un disastro. Creavano sempre delle situazioni di disagio, di ansia, di frustrazione. Cioè, Roberto con me era violento, era nervoso, non riuscivo a stare da sola. Ti ha mai menato, Roberto? A voglia. Forse. Questa è un'altra storia di mamma, la mamma di Bobone, che vedrete nel film Tom e gli altri, che andrà in onda su Sky Arte HD e su Sky Cinema Cult il 1 e il 2 aprile. Ci eravamo interrotti una telefonata, parlavamo con Marco Fichera, schermidore italiano, vincitore dell'argento ai Giochi Olimpici di Rio, ma devo prima leggere un messaggio di un ascoltatore. Sparta era forte perché gli handicappati venivano eliminati, non abbiamo imparato una ceppa dalla storia. Questo è questo intelligentissimo ascoltatore di ampissime vedute, di cui ho anche il numero di telefono, comincia per 329. Pensi se io leggessi questo telefono in questo momento alla radio, lei pensi quella che sarebbe la verità? Non lo faccio perché sono rispettoso, ma rifletto una cosa: di Sparta rimangono solo pietre, vestigie. Della nostra civiltà passerà qualcosa, perché noi siamo avanti, ci siamo civilizzati. Il fatto che gli handicappati non vengono più buttati da una rupe, non vengono più ammazzati, è un vantaggio anche per lei. Lei può permettersi in questo momento di mandare un SMS, avere un telefono a disposizione, avere libertà di espressione del suo pensiero. Lei pensa se l'avessero uccisa nella culla, quello che sarebbe stata per lei la vita, ma soprattutto quello che sarebbe stata di meglio la vita nostra. Gigi Mazzone, hai ricevuto appena un messaggio sul tuo telefono? No, a proposito volevo dire appunto che io mi batto sempre per dire che, essendo l'autismo una condizione, vale sempre più un day hospital in meno e un'attività psicosociale in più, per cui dobbiamo organizzare tutta la parte ludica e psicosociale, che secondo me è cruciale, ed è per questo poi che c'è stato il progetto Rio. Tra le altre cose parlavamo con Marco Fichera, che mi ha mandato un messaggio, dice: l'ho interrotto, che stava per dire una cosa molto intelligente, per cui se Marco è in linea mi scuso per averlo interrotto. Scusa Marco che ti abbiamo tolto questa grande chance. Sei incorreggibile, quindi per fortuna ti conoscono bene tutti. Allora, Fichera, colpa mia che ho interrotto, ma sai, quando la linea te la chiedono che devi passare la linea, dobbiamo interrompere. Andiamo avanti. Ti avevo domandato com'è stata questa esperienza da avere a tavola il giorno della massima concentrazione in cui dovete combattere alle Olimpiadi e guadagnare il vostro titolo, avere una stanza piena di 10 scatenati autistici con le loro guide, ma che comunque sia fanno folla, fanno gente. Guardate, il discorso è un po' quello, mi ricollego a quello che ha detto Gigi prima, la conoscenza, nel senso che fondamentalmente soltanto alla fine, avendo davanti agli occhi, comunque interloquendo, parlando con questi ragazzi, si riesce a capire poi realmente quella che è la, secondo me, anche le grandi cose che ti possono restituire questi ragazzi, perché poi alla fine sembrano frasi fatte, frasi scontate, però poi è vero, cioè noi alla fine quotidianamente ci interfacciamo sul nostro mondo, siamo come quasi a volte dei cavalli con i paraocchi, quindi abbiamo un obiettivo, io sono uno sportivo, quindi spesso ragiono così, cioè ho un obiettivo, faccio di tutto per raggiungerlo, e a volte magari non ho una visione periferica su quello che invece è il resto del mondo che mi circonda, me ne rendo conto, e quindi tra il prima e il dopo quella giornata ne passano ore di scherzi, di giochi, un cartellone disegnato per terra con le nostre facce e le spade da parte dei ragazzi, e questo ti fa crescere, cioè questo ti fa rendere conto comunque che alla fine non c'è soltanto una stoccata in più. È vero, noi eravamo lì per vincere la medaglia, ed è vero anche, sarei ipocrita nel dire il contrario, che se non avessimo vinto quella medaglia alla fine avremmo fallito chiaramente il nostro obiettivo, però è vero anche che poi alla fine potranno anche dire che era per colpa degli autisti, li avrebbero rinfacciato per pranzo, quello sarebbe stato il piano A, poi se ce l'avessero impedito avremmo trovato un piano B, però è colpa del nostro mental coach che ci ha portato gli autistici invece di lavorare con noi. No, colpa del mental coach in generale, no, gli autisti, colpa del mental cose in generale, e quindi è un po' quello, ecco. Io questo stesso discorso pensiero l'ho fatto ad una conferenza stampa che ho avuto in Università Statale a Milano, ho avuto il piacere di parlare e conoscere bene Martina Caironi. Sono chiaramente discorsi diversi, però ti rendi conto anche lì che di tutta quella sfera di problemi, di tutta quella sfera di situazioni che devono affrontare ragazzi più o meno giovani che sono comunque più in difficoltà oggettivamente rispetto a te, che fai una vita al di là delle lamentele e tutto, bene o male normale, cioè anzi più che normale. Ci si accorge veramente che privilegio si ha comunque avere disponibilità di tutti i suoi sensi completamente. Marco, io intanto ti ringrazio e ti saluto. Gigi Mazzone, allora tu hai messo la spada in mano dei ragazzi autistici, cosa che sembra folle, però ha avuto un risultato. Sì, è partita da circa un anno un'accademia di scherma, si chiama Accademia Schermalia, ci sono circa 35 iscritti, di cui 15 ragazzi sono con autismo. Ovviamente, come sapete, lo spettro dell'autismo è molto ampio, per cui c'è un basso e un alto funzionamento, dipende dalla funzionalità adattiva, dal cognitivo. È indubbio che l'alto funzionamento, per l'alto funzionamento le attività sociali e psicosociali sono più furibili. Tuttavia vi devo dire che la mano in spada Tommy. Esattamente, tuttavia devo dire che se ben strutturato un ambiente con magari un tutor e degli istruttori consapevoli tra virgolette, è stato possibile ed è possibile anche per un medio funzionamento fare un'attività come quella schermistica, ovviamente al netto della sicurezza, per carità, questa è una premessa 800 24 00 24. Genitori, se volete questa mattina parlare di autismo, non soltanto con il solito piagnisteo, la solita lamentela, il solito piangersi addosso, ma vedere in positivo cosa si può fare al di là di tutto quello che esiste strutturato di pubblico, di statale, beh, questa è l'occasione giusta. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti, buongiorno a tutti gli spettatori. Io sono papà di una ragazza autistica che ha 15 anni e fa la prima superiore. Volevo dire una cosa molto, molto semplice, rivolgendomi a tutti. Allora, sono sicuramente importantissime le manifestazioni, i giorni dell'autismo, perché aumentano la sensibilità, soprattutto in certi momenti. Ma io volevo chiedere alle istituzioni, nel momento in cui ci sono dei problemi e vengono segnalati, come mai c'è tanta, tra virgolette, ipocrisia e invece di affrontare i problemi si osteggiano addirittura i problemi pur di scoprire se... Sì, faccio un esempio pratico, sennò sembra la solita piove governo ladro. No, sempre pratico, è quello mio. Cioè, si evidenziano dei problemi a scuola, invece di cercare di risolvere i problemi, cosa si fa? Si tende ad autodifendersi e autocoprirsi. Guardi, ahimè, benvenuto, è il mio problema quotidiano. Guardi, mio figlio è protagonista di un film, di due libri. Io bene o male ne parlo da anni, sto combattendo una battaglia strenua col dirigente scolastico di mio figlio, perché ho detto, scusate, visto che l'ultimo anno non ha fatto nulla, fateli fare un altro anno, almeno proverà a fare qualcosa. No, non si può, perché lo vogliono levare fuori dalle scatole prima possibile. È così per tutti, benvenuto. Dottor Nicoletti, possibilmente non li vorrebbero nemmeno a scuola. Ma no, a scuola ci devono andare, dobbiamo chiedere che sia osservata questa legge. No, ci devono andare, dottor Nicoletti, ci mancherebbe. Il problema è che la scuola a volte... È ipocrita. No, la scuola è totalmente ipocrita sugli autistici, perché diciamo delle cose, mettono tante risorse, perché sui nostri figli ci mangiano tante persone, dottor Nicoletti. Sfonda porta aperta, lo diciamo tutti i giorni, noi ci mangiano tante persone, c'è una pletora di persone non con gli strumenti tecnici necessari per occuparsi. Ma con Gigi Mazzone fra un po' diremo esattamente cosa serve per occuparsi di un autistico. Intanto Alessandra Palazzotti al telefono, buongiorno. Buongiorno. Alessandra Palazzotti, direttore nazionale Special Olympics Italia. Per me non è una sigla indifferente, perché li conosco. Sono persone che si caricano i ragazzi, quelli grossi, quelli anche difficili, quelli che la scuola mette da parte, che ti chiamano a casa dicendo suo figlio da problemi, se lo viene a riprendere. Loro se li prendono li portano ovunque, a fare canottaggio, a fare sci, a fare sport. Come vi è venuta questa idea, questa vocazione? Chi ve lo fa fare? Questa cosa è nata da lontano, è nata da Eunice Kennedy, che aveva era la sorella di Bob e di John Kennedy, avevano una delle loro sorelle aveva una disabilità intellettiva e hanno immediatamente visto che con il gioco e lo sport questa prima bambina, che l'hanno, ragazza, diciamo, la famiglia, la parte importante della famiglia l'ha tenuta un po' nascosta questa cosa. Assolutamente, l'ha un po' nascosta una, cioè, parte. Sono stati della presidenti famiglia... della Repubblica due fratelli, ma di questa cosa non è mai stato fatto nulla. No, diciamo che JFK ha fatto moltissime leggi, proprio grazie all'intervento di Eunice ha fatto molte leggi in favore delle persone con disabilità, però il papà ha nascosto tanto questa storia di di questa sorella Rosemary, proprio perché voleva che i figli entrassero in politica, quindi questa immagine un po' perfetta veniva forse, come dire, macchiata da questa sorella un po' strana. E in realtà aveva una disabilità intellettiva anche abbastanza lieve, e, però la sorella Eunice ne ha fatto, diciamo, proprio la sua missione nella vita, quindi avendo visto che lo sport era uno strumento di socializzazione forte e importante proprio per dimostrare a se stessa e agli altri le sue capacità, ha fatto proprio quello che in quel momento con i loro mezzi diciamo, ha ecco, fatto. E voi cosa fate invece? Voi cosa fate? Allora, adesso, allo noi stato seguendo attuale. Proprio seguiamo i programmi Special Olympics, siamo uno dei 170 programmi Special Olympics nel mondo, siamo presenti in tutto il mondo e quindi come Italia abbiamo 26 sport, tra il nuoto, l'atletica, quelli che ha citato lei prima, 16.000 atleti, e giochi nazionali, invernali ed estivi, quindi giochi mondiali, invernali ed estivi, abbiamo adesso, sono tornati dall'Austria 43 persone per i giochi mondiali invernali e ne partiranno molte di più invece per gli estivi nel 2019. Allora ferma un attimo Alessandra, devo ridare la linea perché questo di tempo è radio, però resti in linea ancora perché poi le farò una domanda cruciale. Come fate a fare questa attività? Perché tutti dicono come si fa, lo stato di interesse. Vorrei capire esattamente, con massima trasparenza, cosa riesce a sostenere questo tipo di attività. Ci fermiamo un istante. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, oggi parliamo di autismo, mi dice Gigi Mazzone, ma ne stiamo parlando in maniera diversa, sì, tanti anni forse abbiamo capito un passo diverso rispetto a quello che normalmente si fa. Mi chiede un'ascoltatrice cosa vuol dire il termine teppa autistica, un termine che ho coniato io qualche anno fa, che dà molto fastidio alle persone, e quando guardo questi ragazzi autistici grandi, trattati come bambini, ancora a guardare i cartoni animati di Peppa Pig, a far finta di fumare con le sigarette di cioccolata, considerati come bambini per la mano, direi quanto sarebbe meglio per me saperli teppisti, andarli a prendere all'osteria ubriachi la mattina, vedere che nascondono l'odore del fumo perché hanno fumato. Vorrei avere dei figli teppisti piuttosto che considerati eterni bambini, quindi ho considerato il termine teppa autistico. Mi piace pensarli come teppa autistici, come ragazzi che hanno anche la dignità, se vogliono, di fare tutte le trasgressioni formative che prescrive la loro età. Mi ero fermato un attimo con Alessandra Palazzotti, direttore nazionale di Special Olympics Italia. Alessandra, vi chiedevo, come vi sostenete? Cos'è che vi permette di andare avanti? Non credo che la vostra sia un'attività che vi faccia ricchi, però come fate a mettere insieme questa attività, che è un'attività bella, strutturata, funzionale? Prima la prima domanda che mi hai fatto prima era chi ve lo fa fare? Sì, chi te lo fa fare? Vorrei tornare solo un secondo perché ce lo fa... A me, a tutte le persone che diciamo coinvolgiamo, a tutti i volontari, quello che ce lo fa fare in realtà è tutto quello che abbiamo indietro. Fondamentalmente io credo che chi fa il volontario per noi ha una forma di egoismo fortissima, perché torna a casa sempre ripagato da molto più di quello che ha donato. Quindi quello che ce lo fa fare è che i nostri atleti ci trasformano le vite, ci intanto ci accolgono sempre a braccia aperte. Questo è un messaggio importante, cioè noi non vogliamo che i nostri atleti siano accolti nel mondo cosiddetto normale, ma vogliamo noi come Special Olympics, i nostri atleti vogliono accogliere tutti quelli che pensano di vivere in un mondo normale nel proprio mondo, perché assicuro che questo di Special Olympics è un mondo fatto di gioia, amicizia, vittoria, cioè tutte parole che a volte non vengono invece affiancate al mondo della disabilità, che viene spesso visto da chi non la conosce con un pochino di pietismo, e come dicevi proprio adesso, vengono trattati i nostri atleti sempre come eterni bambini, quando eterni bambini non sono. Una delle prime cose che diciamo ai nostri volontari è non prendere per mano un uomo che ha 40 anni, se te ce ne hai 17, non avere il modo di fare come se avessi davanti un bambino di 8 anni. La dignità dell'uomo è anche della donna, no? La dignità umana è anche questo. E quello che riusciamo ad ottenere tra l'altro con lo sport unificato è fenomenale, cioè atleti e partner che stanno nella stessa barca di canottaggio, nella stessa squadra di pallavolo, di basket, e quello fa sì che chi è più beneficiario, diciamo, di questa cosa è il partner, non è l'atleta, perché scopre un mondo che prima non conosceva. Gigi Mazzone, fermo un attimo, Alessandra, devo dare un po' di tempi. Gigi Mazzone, andiamo, rispetto a quello che ha detto Alessandra Palazzotti, voglio capire se può esistere un metodo, come hai cominciato, visto da tanti anni ti occupi sia di autismo dal punto di vista clinico, sia di sport, a pensare a un format di gestione delle persone neurodiverse in questa direzione? Allora, secondo me la parte ludica sportiva, come ho già detto, è cruciale, però bisogna strutturarla, perché sennò diventa uno stress. Per esempio, dei summer camp estivi che noi con Progetto Ita facciamo ogni anno, nascono da una mamma che portava suo figlio a un campus a Catania ed era frustrata perché i ragazzi non stava sotto il picco del sole 5 ore senza che nessuno gli dava conto. Allora, lo stesso campus, se strutturato in un modo, diventa uno stress, se strutturato in un altro diventa una risorsa. Come farlo diventare una risorsa? Intanto con la formazione di tutti gli altri operatori, perché se gli altri operatori non conoscono o non arriveranno meno in inclusione. E poi bisogna dare dei tutor con un rapporto di 1 a 1, 1 a 2, 1 a 5 in base al funzionamento del ragazzino autistico. Ci devono essere dei tutor formati che favoriscono l'inclusione del ragazzo. Chi fa l'istruttore di calcio, l'allenatore di calcio, l'istruttore di scherma, di tennis, non può prendersi carico anche di inserire un ragazzo autistico, semplicemente perché ha tutti gli altri normotipici, se è una richiesta eccessiva. Beh, è quello che vale anche per gli insegnanti di sostegno. Vale tutto, ha un insegnante curriculare che già ha 30 ragazzi e se gli mettiamo un ragazzino autistico ovviamente lui fa fatica, per cui bisogna mettersi anche nei panni dell'insegnante curriculare. Allora è là che il sostegno deve dare una svolta, e lo stesso principio vale per l'attività sportiva. L'insegnante di tennis deve fare insegnante di tennis, deve conoscere la problematica, perché la deve conoscere, deve essere degli strumenti formato, deve averli, cioè. E deve avere un tutor affiancato, che è quello che stiamo cercando di fare sia nei campi sportivi sia per esempio in questa. Noi c'è un progetto della Federscherma in cui stiamo istituendo il tutor di sala scherma. Il tutor di sala è quello che è un pedagogista formato che conoscerà la scherma e conosce la situazione dell'autismo e affiancherà i maestri di scherma. Questo metodo può essere amplificato a tutti gli sport. Lorenzo, buongiorno, velocissimo. Buongiorno, volevo solo segnalare il fatto che i ragazzi, anche i ragazzi autistici, possono e giocano a rugby. Assolutamente. Io sono un sì. Sì. Anzi, è uno degli sport più adatto. Ottimo, ottimo, mi scusi, non ho nominato, ma è ottimo il rugby. E con l'aiuto di facilitatori, perché in fondo sono poi sempre 15 persone in campo, in mezzo ci sono dei facilitatori, ex giocatori oppure comunque sanno i fondamentali, accompagnano e fanno fare meta a questi ragazzi che crescono e ottengono il traguardo personale, che è forza per loro, ma forza anche per i facilitatori. Ha ragione Lorenzo, anche mio figlio ha fatto rugby, l'ho visto. È complicato perché bisogna spiegarle a loro un insieme di cose, Gigi, bisogna fargli capire il rapporto con i loro compagni di squadra e soprattutto capire che devono tirare la palla da qualche parte, due cose insieme è un po' difficile da spiegargliele. Sì, là si rifà il discorso del funzionamento, no? Perché poi dipende anche che cosa vogliamo da quell'attività. Allora, se vogliamo che stiano bene, ottenere la meta, ovviamente è come, io scusate, mi scuseranno tutti, riporto sempre la mia attività alla scherma, è semplice, non perché la scherma è migliore degli altri sport, ma semplicemente perché il background personale mi porta a parlare di quello. A un ragazzino autistico con un funzionamento basso è difficile far capire che devi toccare l'avversario, ma non ti devi fare toccare, non ti devi fare colpire. È una cosa molto complessa. Rugby, penso che i principi per arrivare a meta sono sì semplici, ma anche un po' complessi. Svicolare dagli altri. In un gioco di squadra. Poi passare. Dipende cosa vogliamo da quell'attività. Un genitore mi ha detto: dottore, mi basta comunque che mia figlia partecipi all'attività di sala. Ecco, anche là nel rugby, magari su un autismo a basso funzionamento, gli obiettivi possono essere anche diversi rispetto a quello di fare. Ma anche la fase di allenamento, la preparazione è una fase importante. I ragazzi, gli piace stare insieme agli altri, cioè hanno un vantaggio stare insieme agli altri. Per questo gli esempi che ci portano molte volte i paesi stranieri, dicevano oggi, stamattina ha scritto uno, in Francia sono delle ottime scuole per autistici, negli Stati Uniti sono ottime scuole per autistici, ma sono soltanto per autistici, vedono soltanto autistici. Questa è la differenza fondamentale. Assolutamente, c'è proprio il principio dell'inclusione, no? Nel modificare tutto l'ambiente sociale, sportivo, per favorire quella reale inclusione, è proprio questo, cioè io cambio qualcosa di me stesso per favorire te che hai una problematica ed integrarti al meglio nell'ambiente sociale. Tra integrazione e inclusione c'è una grande differenza. Nadia, buongiorno, velocissima che siamo in chiusura, però voglio che parli una madre di una ragazza di 18 anni autistica. Sì, buongiorno, sono la mamma di Alessia, 18 anni, sono Nadia da Brescia. Volevo dire che mi sono veramente rotta le palle di parlare di inclusione, perché inclusione in realtà non c'è mai. la gente non è formata, a scuola la gente non è formata. Cioè sentirne parlare, ma il principio è buono, è che in realtà è una presa per il culo dire inclusione. Esatto, certo. È per quello che mi sono rotta le palle. Personalmente... Questa è la mattina dei francesismi, ma ci sta. Scusi. No, figuri. Allora, personalmente la mia esperienza devo dire che è anche abbastanza buona, a parte vabbè degli insegnanti di sostegno che sono capitati inadeguati, però abbiamo risolto la situazione. Ogni tanto una botta di culo ci sta bene, visto che continuiamo su quella linea. Ogni tanto ce l'abbiamo, noi ce l'abbiamo avuta, quest'anno ce l'abbiamo avuta, speriamo di averla anche l'anno prossimo per la maturità. Alessia è una ragazza splendida, mi insegna. Che ne fa dopo giorno. Di Alessia? Quando finisce la scuola che ne farà? Una battuta. Che ne faremo di Alessia? Chi lo sa? Chi lo sa? E ve lo ponete il problema? Il mio crucio è il dopo di noi. Il mio crucio è dopo di noi. Io sto lavorando come una pazza perché voglio preparare mia figlia ad essere indipendente. Non so se lo sarà, lo spero tanto, però è il mio obiettivo, guardi, è la mia missione praticamente di vita, anche se avendo un alto funzionamento, una ragazza anche abbastanza indipendente, molto vulnerabile verso gli altri, come sappiamo bene. Però è la nostra missione, il nostro obiettivo, e anche qui mi fa infuriare il fatto di non sapere come andrà a finire mia figlia o anche ragazzi a basso funzionamento come andranno a finire in uno stato che si ritiene uno stato evoluto. Grazie Nadia, chiudiamo, abbiamo fatto dire a lei quello che in realtà volevamo dire tutti, ci ha sorpassato in sintesi e in efficacia. Grazie Gigi Mazzone. Grazie. Grazie a tutti, alla prossima, al prossimo anno.